No, io stasera voglio parlare del regno di Dio, la cultura del regno di Dio. Siete pronti per questo terzo appuntamento? La scorsa volta abbiamo parlato del linguaggio. Il linguaggio è parte della cultura. Come parliamo è parte di qualcosa che ereditiamo, quale modo di fare, quale modo di agire, ed è basato sui valori che diamo. E quindi è curioso vedere come parliamo noi italiani, è vero? A volte siamo entusiasti e passionali, pensate al calcio, no? Al calcio noi lì ci accendiamo, discutiamo, litighiamo, ci amiamo, c'è di tutto. È bellissimo il periodo dei mondiali, è vero? Il periodo dei mondiali è un tempo di ritrovo, è come Natale e Capodanno per noi italiani, vero? È un periodo di festività, di stare insieme. Ecco, quello che noi notiamo nella cultura è vero anche per il regno. Noi, voglio ricordarcelo, facciamo parte di un'altra cittadinanza, la cittadinanza che noi abbiamo ereditato nei cieli in Cristo Gesù. Siamo contenti? E il regno di Dio sta per venire completamente nel ritorno di Cristo. Siamo contenti di questo? Gesù sta per tornare. Bene, bene, bene, bene, lo rifacciamo seguendo un po' quello che abbiamo fatto la scorsa settimana, visto che avete un po' i piedi freddi, freddoliti? No, no, ma meno male, però comunque li faccio riscaldare lo stesso, quindi vogliamo battere i nostri piedi, sentiamo dalla prima all'ultima fila, un po' più forte, pronti con le mani e con gli urli, Gesù ritorna! E così noi gioiamo, noi festeggiamo perché sarà un bellissimo momento. Voi lo fate mai? Lo pensate mai? Pensate mai al ritorno di Gesù? In modo particolare quando sei in quelle situazioni dove tutto va male, no? Sei nella valle dell'ombra della morte e lì dici, Signore, torna. Oppure sei in una situazione imbarazzante, come abbiamo sentito dal pastore Mike Pilavaci, no? Ti esponi a profetizzare qualcosa, nessuno risponde e dici, Gesù, questo è un buon momento per tornare. Però a parte gli scherzi, io e mia madre, che da quando eravamo piccoli ci diceva sempre questa cosa, no? Gesù tornerà, Gesù, non vediamo l'ora che Gesù torna. E quindi questa aspettativa, io credo che fa parte, questo è un aspetto che non toccheremo, però credo che fa parte della cultura del regno. Il popolo di Dio che vive nel regno di Dio è in aspettativa per l'adempimento totale della venuta del regno e del ritorno di Cristo Gesù, siamo d'accordo? E noi ci possiamo incoraggiare in questa maniera, è un bellissimo incoraggiamento, ricordare al tuo fratello, alla tua sorella, sai che Gesù sta per tornare e se lui non torna sarai tu ad andare da lui? Non siete d'accordo su questa? No, forse non è una bella cosa da dire al nostro fratello, alla nostra sorella. Però in ogni modo non manca molto che lui torni o noi andremo da lui, non manca molto. Tutte le mani in vista mentre dico questa cosa, nessun scaramantico che tocca la sedia, che ferro, no, nessuno. Gesù torna e la nostra aspettativa è proprio questa, che noi possiamo vivere quel tempo dove la piena giustizia avrà modo di sussistere, dove tutto sarà perfetto. Nel frattempo, come abbiamo detto la scorsa settimana, noi siamo qui e non disoccupati. Siamo qui con un compito, un mandato, noi siamo ambasciatori del regno di Dio, noi rappresentiamo il regno di Dio, noi rappresentiamo il regno di Cristo Gesù, di cui Lui è re, il regno che è già stabilito perché Lui è venuto e ha stabilito il suo regno su questa terra, ma rappresentiamo anche quello che verrà e verrà completamente nella sua completezza e pienezza. Io stasera voglio parlarvi di Satana. Ecco, l'espressione la dice lunga, no? Di Satana, di Lucifero, del diavolo. Perché la Bibbia parla di Satana, di Lucifero, e Sapete, quando si parla di Satana c'è sempre una contrapposizione. C'è chi non lo vuole nominare neanche, c'è chi lo ignora o cerca di scansare ogni cosa che ha a che fare con questo nome, con questa figura, con questo, questo essere, una creatura di Dio, perché il diavolo non è altro che un angelo caduto, quindi creato da Dio. Oppure c'è l'ossessione. Avete notato che ci sono persone che sono ossessionate invece da Satana? Cioè, ogni cosa è colpa del diavolo, e il diavolo è dappertutto. Mettiamo in chiaro una cosa, visto che stiamo parlando del regno di Dio, ed è importante parlare di Satana, del regno delle tenebre, Gesù che lo ha fatto. Vi ricordate, abbiamo parlato di questo, no? Gesù viene come colui che lega l'uomo forte, che è il diavolo, e deruba il diavolo dei suoi beni, che siamo noi. Lui ci prende, si riappropria di noi con potenza, con la potenza dello Spirito Santo. Ora, quando noi parliamo del regno delle tenebre, e lo contrapponiamo al regno della luce, al regno di Dio, noi dobbiamo comprendere, questo è molto importante, fratelli e sorelle, che noi non stiamo parlando di due regni contrapposti della stessa entità e della stessa potenza. Questa è una bugia assoluta, ok? Come il diavolo non è contrapposto a Dio come se fosse della stessa potenza e della stessa altezza e della stessa autorità. Niente di più menzognero di questo. La Bibbia ci dice che il regno delle tenebre, che è formato dal diavolo e i suoi angeli, a parte che si tratta di un terzo degli angeli caduti, quindi noi facciamo parte della squadra che tiene un angelo contro due, no? Quindi siamo in vantaggio, ma Dio è supremo ed è in completa autorità su tutti, su tutti. Non è in autorità solo sul regno in Cristo Gesù, lui è in autorità anche sul diavolo e sui demoni. Non è una bella notizia questa? Non c'è nulla che sfugga dal controllo, la potenza e il potere di Dio, perché, come ho già detto prima, il diavolo non è altro che un angelo, una creatura creata da Dio e che ha fallito. E voglio leggervi quello che in Isaia noi leggiamo al capitolo 14, della cultura, se vogliamo, del modo di parlare, del modo di pensare, del modo di atteggiarsi del diavolo, che è la vera ragione per la quale lui è caduto, è stato cacciato dal regno di Dio. Noi leggiamo in Isaia al capitolo 14 queste parole, dal versetto 13: tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, è il diavolo che parla, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Guardate questo verso che subito contrappone tutta queste parole di Satana. Versetto 15: invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nella profondità della fossa, perché questo è il posto che spetta al diavolo. Sapete una cosa? L'inferno è stato creato non per gli uomini. Gli uomini saranno giudicati e chi non è parte del regno di Dio sarà condannato e finirà nell'Hades, nell'inferno, ma l'inferno, l'obiettivo principale dell'inferno è il giudizio del diavolo e dei suoi angeli, dei demoni. Quello è il posto che gli spetta. E come abbiamo detto la scorsa domenica, quando il regno di Dio verrà nella sua completezza, il male sarà confinato, giudicato, e quello sarà il posto dove il diavolo non regnerà e festeggerà, no? Come abbiamo nei cartoni animati, nei film, questa immagine collettiva che è il diavolo che è lì, che banchetta, che domina. No, lui sarà lì condannato, lui sarà una vittima, la vittima peggiore di quel posto, e soffrirà, sarà in sofferenza eterna per la sua condanna, per quello che lui ha fatto. E qual è la condanna di Satana? La condanna è il peccato per eccellenza che noi leggiamo in queste parole, è il peccato di superbia. è il peccato di orgoglio, è il peccato di alterigia, di volersi gonfiare, elevare a una posizione che non gli spetta. Questo peccato è lo stesso peccato al quale il diavolo ha invitato noi nell'Eden. Perché vi ricordate quando il diavolo è andato alla donna, all'uomo? Lui ha suggerito la stessa cosa. Ha detto: se voi mangiate di questo frutto, sarete come Dio. E quindi ci ha invitati ad avere lo stesso tipo di orgoglio, lo stesso tipo di presunzione, lo stesso tipo di superbia. E io voglio parlarvi questa sera della cultura del regno di Dio, di un aspetto della cultura del regno di Dio che è in contrapposizione netta a questo atteggiamento e a queste parole, ed è l'attitudine di umiltà. Ci piace? Puoi girarti alla persona che sta a fianco e dirle: tu sei chiamato ad essere umile, tu sei chiamato a vivere umiltà. Questa è la nostra condizione ed è una bellissima condizione, una bellissima condizione. Abbiamo letto quello che dice il diavolo, no? E abbiamo letto qual è l'attitudine del diavolo, che si eleva, si inorgoglisce, si gonfia, si riempie la bocca di parole di superbia. Leggiamo insieme quello che viene detto di Gesù in contrapposizione in Filippesi 2, perché è curioso metterli a confronto, perché in Filippesi 2, dal versetto 5 c'è scritto questo: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. In altri termini, vivete questa cultura, questo modo di pensare, questo modo di atteggiarvi. Versetto 6: il quale, Gesù, pur essendo in forma di Dio, Gesù è Dio, Gesù è Dio, è nel regno di Dio, era Dio completamente. Lui non doveva vivere l'aspettativa di crescere a qualcosa, lui era nella posizione suprema. E guardate la contrapposizione rispetto al diavolo. Qui c'è scritto: pur essendo in forma di Dio, non lo considerò più l'essere uguale a Dio, qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso. Che contrapposizione. Qui vediamo il diavolo riempire se stesso, gonfiarsi e prendere il volo per poi essere scoppiato come un palloncino e cadere rovinosamente. Qui invece vediamo un Gesù che si svuota di se stesso, di ogni diritto, di ogni posizione, di ogni titolo, di ogni privilegio. Si svuota completamente, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, e sappiamo cosa significa questo, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso per due volte, vedete, notate che viene ripetuto due volte, che umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Versetto 9 finisce molto diversamente rispetto al versetto 15 di Isaia 14. Lì finiva che il diavolo è stato condannato e abbassato, qui invece noi leggiamo: perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. È una contrapposizione di altezze, la vedete? Chi si alza viene abbassato nella legge di Dio, nella logica di Dio, nella cultura del regno di Dio. Chi si abbassa viene innalzato, chi si alza viene abbassato. Questa è la logica di Dio, è nuda e cruda, e la troviamo in una serie svariata di versi: Proverbi 18:12, 1 Pietro 5:5, Giacomo 4:10, Giobbe 5:11, Proverbi 3:34. Che cosa dicono tutti questi versi? Ascoltatemi bene, tutti questi versi hanno in comune queste parole, e dicono questi versi che l'umiltà precede la gloria. E invece l'orgoglio, la superbia, l'altezzosità precede la caduta. Un contrasto di altezze. E noi siamo qui perché vogliamo essere innalzati. Innalzati da chi? Non dagli uomini. Perché se sei innalzato dagli uomini è molto probabile che non verrai innalzato da Dio. Noi vogliamo essere innalzati da Dio, noi vogliamo prendere la gloria che possiamo ottenere in Cristo, noi vogliamo piacere a Lui. E vedete, Gesù è venuto su questa terra e avrebbe potuto agire in mille modi diversi rispetto a quelli che lo hanno contraddistinto. Lui è venuto su questa terra e avrebbe potuto portarsi con sé tutta una schiera di angeli. Ci avete mai pensato? Lui poteva venire come re, incoronato, con delle bellissime vesti e con un seguito di angeli, e fare gli stessi miracoli, insegnare le stesse prediche e pomparsi di una potenza, di un'autorità che gli spettava, che gli spetta totalmente. Lui poteva venire con tutti questi angeli e noi comprendiamo che questo è veramente quello che anche ha detto a Pietro. Vi ricordate nel Getsemani? Quando sono venuti per arrestarlo, Pietro l'ha voluto difendere a Gesù e ha reciso l'orecchio di un servo. E in quel momento Gesù si è rivolto a Pietro e gli ha detto: ma tu credi che... ma chi credi che io sono? In altri termini, cioè, ma di cosa stiamo parlando qua? Non ti rendi conto che io in questo momento, in questo istante, potrei chiedere che siano mandati centinaia di angeli a mia protezione? E gli angeli mi proteggerebbero, allontanerebbero questi accusatori, allontanerebbero questi persecutori. Gesù avrebbe potuto agire in mille modi diversi e non solo risuscitare i morti come ha fatto, ma avrebbe potuto mettere a morte persone che erano vive. Avrebbe potuto reagire totalmente diversamente rispetto a coloro che erano i suoi oppositori. Le persone in autorità, c'erano persone in autorità che lo hanno preso in giro, che lo hanno ingiuriato. Lui che è il Dio supremo, lui che è il re dei re, il Signore dei signori, lui si è lasciato prendere in giro. Si è lasciato prendere in giro. Non è capitato, a volte noi leggiamo Gesù e diciamo: ma poverino quest'uomo, ne ha subite di cose. È ancora più straordinario comprendere che lui ha permesso che questo accadesse, pur avendo la forza di poter reagire e vivere tutt'altro. Gesù avrebbe potuto crearsi una dimora sfarzosa ed essere in un palazzo regale e farsi vedere da tutte le nazioni su questo mondo quale re disceso dal cielo. E invece dove abitava? Quando gliel'hanno chiesto, lui ha detto: seguitemi, venite a vedere, non c'è posto per me. La mia dimora sono le piazze, sono le strade, la mia dimora è la missione. Io vado dove Dio mi indica ad andare, io faccio quello che il Padre mi chiede di fare. Ed è qui che noi comprendiamo l'umiltà. Gesù dice: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. È Gesù che lo afferma, e Gesù è verità, e lui è l'umiltà che si fa carne e che noi possiamo toccare e comprendere bene. Che cos'è l'umiltà? Partiamo da che cosa non è, ok? L'umiltà non è andare col capo chino e dire a tutti le nostre sofferenze: la mia vita è un calvario, io ho questi acciacchi nel fisico e sono perseguitato a destra e a sinistra, ho perso il lavoro. No, questo non è umiltà, questa è depressione, molto diverso. E la depressione, per certi versi, in realtà non è altro che un'altra forma di superbia. Se ci pensate, non vale per tutti i casi, però a volte è un richiamare un'attenzione di nuovo su noi stessi. Le persone depresse sono persone che sono totalmente assorbite da loro stessi. E per quanto soffrono nella loro condizione, non fanno altro che pensare alla loro condizione e ingigantire la loro condizione. E quindi questa non è umiltà. L'umiltà non è neanche dire: io non sono buono a nulla, io non valgo a niente, non ringraziatemi per quello che ho fatto, non ringraziatemi per quello che ho detto, non fate elogi perché io sono una nullità. È una bugia, questa non è umiltà, questa è dire delle bugie perché Dio non crede questo di te. Che cos'è l'umiltà? L'umiltà è vivere una vita con una proiezione completa, totale e costante verso gli altri. verso Dio e verso il nostro prossimo. E questa è la cultura della nostra Chiesa. Vi ricordate il motto cosa dice? Il motto della nostra Chiesa dice: noi siamo un popolo di veri adoratori, impegnato ad ubbidire. Chi è che lo sa con me? Facciamo un applauso a Claudia Annarita che lo hanno detto preciso, a voce piena. Questo è il nostro motto da anni. E sapete cosa? Per vivere ubbidienza al grande comandamento, che è amare il prossimo e amare Dio, bisogna essere umili. In realtà per obbedire in generale bisogna essere umili. Una persona che è obbediente, una persona che è sottomessa, è una persona che è umile. Gesù dimostra la sua umiltà perché non ha fatto quello che gli piaceva fare. Vi ricordate che nel Getsemani lui ha pregato: Signore, se possibile, che questo calice mi passi oltre. Vi ricordate questa cosa? Questo esprime il fatto che non sempre quello che Gesù ha vissuto e ha fatto gli è piaciuto. Ma lui si è fatto obbediente, come abbiamo letto in Filippesi, è obbediente fino alla morte in croce. E questa obbedienza l'ha maturata e l'ha espletata nel mondo perché era umile al 100%. Sai essere obbediente? La tua obbedienza determina la tua umiltà. Il tuo essere disposto ad essere sottomesso a un'autorità ti dice, ti parla della tua condizione di umiltà. Io non vi voglio abbattere, so che è pesante come messaggio, però sapete una cosa, voglio aprire il mio cuore. Mentre io mi preparavo per questo messaggio, io mi sono dovuto rendere conto che, Signore, io veramente, e questa non, perché c'è pure la falsa umiltà, ok? Quindi non voglio essere un falso umile ora. Però letteralmente nello studiare questo argomento, più scavavo e più versi leggevo e più articoli e parti di libri o prediche ascoltavo e più mi rendevo conto che io sono il primo che ha bisogno di sentire questo messaggio. Ed è così facile parlare di umiltà, come è facile parlare di ogni tema. È facile insegnare, viverlo è una sfida enorme e nessuno di noi è arrivato. Tutti noi ricerchiamo i nostri bisogni, tutti noi costantemente siamo tentati di pensare a noi stessi. Mi sono sforzato di dire: io voglio battere il record del tempo che riesco a non pensare a me e a pensare agli altri. E il mio record è stato di 2 minuti all'incirca. E dopo 2 minuti ho ripensato di nuovo a me. Era una battuta, però è vero. È quello che noi viviamo, vero? Pensateci un attimo, adesso a chi stai pensando? Volete fare un test di umiltà? Se tutte le parole che hai ascoltato fino a questo punto, hai pensato, queste sono perfette per mio marito. Sono così contento che il pastore sta predicando questo messaggio perché si addice perfettamente a mia moglie. Oppure stai pensando a un fratello che è da una parte nella sala. Che bello! Se stai pensando questo, hai fallito il test dell'umiltà. Perché umili significa mettersi in condizione di lasciarsi istruire, guidare ed essere sottomessi. E io sono il peggiore in questo e voglio crescere, perché c'è gloria nell'umiltà, perché voglio ricordarvi che il regno di Dio, la cultura del regno di Dio è una cultura che porta benedizione. Oggi pomeriggio ho letto questo articolo di un incidente navale che c'è stato nel 1986, un incidente navale patetico nel quale sono morti più di 400 persone, passeggeri. Sapete perché queste due navi si sono schiantate fra di loro? Perché erano entrambe in rotta di collisione l'una con l'altra, ma nessuno dei due capitani era disposto a fare la prima mossa. E quindi per un primo momento hanno detto: no, ce la facciamo, poi si sono resi conto che serviva una piccola virata, e poi hanno dato per scontato che fosse l'altro a virare, e quando hanno realizzato che stavano per collidere fra di loro, era già troppo tardi. Queste due navi si sono scontrate e centinaia di persone sono morte. Questo è ciò che fa l'orgoglio. Questo è ciò che fa la superbia. Siamo così concentrati su noi stessi e non ci rendiamo conto che questo porta dolore in noi e porta dolore nelle altre persone, in tante altre persone attorno a noi. L'umiltà è quella virtù che ci porta a valorizzare gli altri, a mettere davanti gli altri, a fare il tifo per gli altri, a dire io voglio vivere una vita nel quale vedo altri crescere più di me. L'umiltà è questo, l'umiltà è quella virtù che ci porta a non essere così annebbiati dalla vista di noi stessi, dell'importanza che diamo a noi stessi, avere quella capacità di ascoltare gli altri. Viviamo in una società di solitudine e questo perché molto spesso non abbiamo la capacità di ascoltare, perché non vogliamo sentire il problema dell'altro, siamo già troppo concentrati sui nostri problemi. Umiltà è dire io voglio mettermi in ascolto. Io voglio avere empatia, io voglio aiutare altri. Questa è umiltà. Ci piace? Questo è quello che noi vogliamo vivere. È una virtù meravigliosa. Il regno di Dio avanza così. Il regno di Dio avanza. La società che ci circonda vede le persone che si abbassano e che sono umili come dei perdenti. Nella logica di Dio è tutto al contrario. Parlando di essere upside down, questo è essere upside down, comprendere che la logica di Dio funziona al contrario. E quando tu ti abbassi, realmente Dio ti vede ed è Lui che ti innalza. Anche in chiesa c'è troppo spesso una ricerca di posizioni, no? E di ruoli, e di ricercare quello che può essere una comodità. E prima condividevo con i ragazzi e dicevo, ragazzi, stasera se vogliamo servire la chiesa, dobbiamo andare oltre noi stessi. Questo è servire. Non pensare a quello che può gratificare te, ma pensare come puoi onorare gli altri. Io ringrazio il Signore perché abbiamo un ministero nella nostra chiesa che ci aiuta a esercitare l'umiltà ed è il servizio della Servolution, coloro che lavano a terra. Anche se io credo che ci sono delle donne che amano lavare a terra, però per me è un servizio che richiede uno sforzo, un sacrificio, ed è umile, ed è bellissimo. Se non fai parte della Servolution, momento pausa e momento pubblicità, e cerchiamo di unirci a questo servizio, fai parte della Servolution. Anche a Mottola abbiamo bisogno di persone e di uomini. Quanto è bello vedere uomini che lavano i bagni. Vero, sorelle? A casa come in chiesa. È bellissimo vedere ed è un gesto di umiltà. Andiamo avanti. Io voglio parlarvi di quello che è un personaggio biblico che noi troviamo in Due Re al capitolo 5. Con questo voglio concludere, la storia di Naaman. Quanti ricordano la storia di Naaman? Questo Naaman è un generale di guerra, è una persona che ha dei titoli, che ha una posizione. E che posizione? Pensate che quest'uomo ha portato l'esercito siriano a conquistare il territorio del popolo di Israele. E questo esercito ha vinto e ha fatto prigionieri e ha portato un bottino a casa. Quest'uomo, generale di guerra, aveva in casa sua una serva prigioniera di questa guerra, una ragazza che era al servizio di sua moglie. Ora, questo generale, questo capitano, quest'uomo di valore, questo combattente e vincitore, aveva un problema. Aveva la lebbra, era infermo. E questa ragazza che era in casa sua dà un consiglio, lo dà alla moglie di Naaman e le dice se solo Naaman andasse in Samaria, lì troverebbe un profeta e sarebbe guarito. Naaman dimostra umiltà, sì forse era disperato per la malattia, ma dimostra umiltà nell'accettare il consiglio di una ragazzina prigioniera. E soprattutto dimostra umiltà nell'andare nel territorio dei suoi nemici che ha conquistato per umilmente chiedere aiuto e guarigione per il suo corpo. Vi rendete conto? Fino a questo punto Naaman dimostra una umiltà molto bella, molto evidente. Che cosa fa? Si prepara, ha con sé un seguito di servi, di carri, di cavalli e di doni. doni e ricchezze da dare a quest'uomo. Arriva con tanto di lettera scritta tra i re e quindi lui probabilmente si aspettava un incontro in pompa magna, no? Per adatto al suo rango, alla sua statura. Arriva alla porta del profeta, chiede del profeta e Eliseo non si presenta. Vi rendete conto che gesto sconsiderato? E credo che il profeta, guidato da Dio, voleva dare una lezione di umiltà a Naaman. Perché Naaman è lì, fuori alla porta, e non viene accolto. Non ha istruzioni dal profeta. Non ha la possibilità di fare qualcosa per guarire, avendo un contatto e un incontro diretto con il profeta. Il profeta manda un suo servo. Il servo, sapete che cosa gli dice? Gli dice: senti, il profeta mi ha detto, vai nel Giordano e lavati per 7 volte, immergiti nel Giordano per 7 volte. Sapete qual è stata la reazione di Naaman? A questo punto dice: io ho ascoltato una ragazzina, sono venuto in territorio straniero e nemico, mi sono abbassato. Sono venuto alla porta di questo profeta e non sono stato accolto, e adesso mi viene data istruzione di bagnarmi per 7 volte in un fiume fangoso e sporco. Dice: noi ne abbiamo di migliori nel nostro territorio. Dovevo venire fino qua per bagnarmi per 7 volte in un fiume sporco, e letteralmente, non ho la possibilità di leggervi tutta la storia, ma vi cito testualmente le parole che esprimono qual è la condizione adesso di Naaman, non più umile. C'è scritto nella Bibbia: e voltatosi se ne andò infuriato. Naaman a questo punto era infuriato, non ne poteva più. Aveva speso tutta la sua umiltà. E se la posizione di Naaman fosse rimasta questa, di orgoglio, di rabbia e di superbia, non sarebbe mai stato guarito. Chi è che lo fa rientrare in sé? Altri servi. Non è incredibile? I suoi stessi servi gli dicono: perché? Perché non provi a fare questa cosa? Perché non provi a seguire queste istruzioni? L'umiltà, ascoltatemi bene, è sinonimo di ammaestrabilità. L'umiltà è quella virtù nella quale tu ti lasci correggere. L'umiltà è quella virtù nella quale tu decidi che anche l'ultimo dei servi ha la possibilità di dirti che cosa fare e come comportarti. In Proverbi ci sono delle parole molto forti, nel capitolo 9 al versetto 7. Ascoltate cosa dice Proverbi 9 al versetto 7. Dice: non fare rimproveri a un arrogante, a meno che non vuoi farti odiare. È vero. Prova a correggere una persona arrogante. Prova a correggere una persona che è piena di sé. Anzi, non lo fare. Qual è la reazione? Ora, io credo che nessuno di noi è arrogante al punto da rendersi odioso, no? Agli occhi di chi ci corregge. Però a volte non abbiamo anche noi seria difficoltà ad accettare una riprensione, ad accettare un'indicazione. Tante volte mi è successa questa cosa e credo che anche voi potete rivedervi in questa esperienza, che il Signore mi ha dato delle indicazioni e delle parole profetiche proprio da quelle persone dalle quali meno mi aspettavo che il Signore parlasse alla mia vita. Perché lo fa? Perché non sceglie magari il pastore o qualcuno che stimi, qualche amico vicino in chiesa, ma si serve a volte delle persone alle quali tu meno daresti accesso al tuo cuore? Lo fa perché vuole esercitare la tua umiltà. E quindi noi ritroviamo Naaman, che a questo punto della storia va al Giordano, dimostra di essere rientrato in sé, e dimostra di essere un uomo che, per quanto avesse un titolo e una posizione, era disposto ad essere umile. entra per la prima volta nel Giordano e si bagna interamente. E io le immagino, no, che si immerge, dice, beh, saranno 7 volte, evidentemente ci saranno 7 passaggi diversi. E si guarda, vede la sua pelle ancora ricoperta dalla lebbra. E dice, va bene, sono 7 le volte. E lo rifà per una seconda volta. La Bibbia parla che si tuffò per 7 volte nel Giordano, si bagnò. E non so se uscì dal fiume, ma fu un gesto che richiedeva, secondo me, in ogni suo movimento, un ulteriore morire a se stesso e umiliarsi. Lo voglio fare, ci voglio credere, voglio provarci, voglio lasciarmi ammaestrare dal servo di Dio, dal profeta. Non è ancora successo. La quarta, la quinta, la sesta, quando la speranza sembrava no, non poterci essere più, alla settima volta lui esce fuori dall'acqua e la Bibbia descrive che la sua pelle era come quella di un bambino. Dio non solo l'aveva guarito dalla lebbra, ma gli aveva dato un'occasione di fare, che so, un'esperienza di salone di bellezza. È uscito nuovo, come se fosse nato in quel momento. Dio ha manifestato la sua gloria facendo un miracolo, che era senza dubbio un miracolo suo e non dipendeva dall'acqua fangosa nella quale lui si era immerso. E questo miracolo è stato permesso, è stato possibile nella vita di Naaman perché si è umiliato. Dopo è andato dal profeta e gli ha voluto dare tutte le ricchezze di questo mondo, gli ha voluto dare tutti i regali e tutti i doni che aveva preparato e aveva portato. Il profeta non accetta niente di tutto questo. Un altro esempio di umiltà. La Chiesa è il contesto migliore dove noi possiamo esercitare l'umiltà. Perché in Chiesa noi diciamo no all'individualismo. Entriamo a far parte di una famiglia che non ci siamo scelti. Entriamo in relazioni che non abbiamo selezionato noi, che Dio ha selezionato per noi. E nel contesto Chiesa abbiamo la possibilità di esercitare l'umiltà continuamente, nella correzione che può venire dalle autorità, che può venire dal tuo capogruppo, dai ministri della squadra pastorale. Puoi esercitare l'umiltà nel far parte di un servizio, perché noi come Chiesa crediamo nel lavoro di squadra, perché la Chiesa è una squadra, è un corpo fatto di tante membra. E quando noi abbiamo l'occasione di lavorare insieme ad altre persone, è lì che noi esercitiamo l'umiltà. La Chiesa è la tua occasione per crescere e andare oltre te stesso per vedere l'altro, il bisogno dell'altro, servire l'altro, amare l'altro. Vuoi crescere nell'umiltà? Entra a far parte della Servolution. Vuoi crescere nell'umiltà? Comincia a pregare per gli altri. Vuoi crescere nell'umiltà? Digiuna, lotta, intercedi per i bisogni di altre persone. Vai oltre te stesso, vai oltre. Quanti digiuni facciamo per noi stessi, per la nostra vita? Vuoi crescere nell'umiltà? Vedi i bisogni dell'altro, prodigati per i bisogni degli altri. Vuoi crescere nell'umiltà? Fai squadra, umiliati. Vuoi crescere nell'umiltà? Fai le domande scomode. La domanda più scomoda che puoi fare nella tua vita a un tuo fratello o a una tua sorella è chiedergli e dirgli: ma tu vedi qualcosa che deve cambiare nel mio cuore, nella mia vita? Scomodissima. È una domanda scomoda da fare nel matrimonio, a tua moglie, a tuo marito. Ed è un'occasione per tua moglie e tuo marito di uscire una lista, una pergamena preparata da decenni. Però quanto è bello ascoltare e crescere nell'umiltà. Vuoi crescere nell'umiltà? Abbassati. Prendi l'asciugamano e lava i piedi. E questo è l'esempio che Gesù ci ha lasciato. Non essere attratto dalle cose alte, dai titoli, dalle posizioni, dal rispetto, dai tuoi diritti. Sii attratto dal servire. dal fare cose che sono scomode, che richiedono sacrificio, che ti rubano tempo, ma le fai perché vuoi benedire l'altro e vuoi onorare Dio con la tua vita. Vuoi crescere nell'umiltà? Chiedi aiuto. Chiedi aiuto. Fai quello che Naaman ha fatto. Hai un bisogno. Chiedi aiuto, chiedi preghiera ad altri. Richiede umiltà, andare a qualcuno e dire: senti, puoi pregare per me? Non la vedo chiara, o sono disorientato, ho dei problemi con me stesso. Puoi pregare per me? Devi ammettere la tua debolezza, devi essere vulnerabile, ti devi aprire, e questa è tutta umiltà. Vuoi crescere nell'umiltà? Questa è la domanda di stasera. Io sì. E non è facile, so che è proprio un lavoro giornaliero. Però Gesù dice: se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso. In altri termini sta dicendo: segua il mio esempio, io mi sono svuotato di me stesso completamente. Vuoi venire dietro a me? Vuoi seguire il Re? Vuoi essere innalzato, vuoi essere glorificato, vuoi essere premiato da Lui? Perché c'è una promessa collegata all'umiltà. C'è una promessa, c'è la promessa di essere elevati. Noi possiamo vedere vite come quelle di Mosè, che godono di un'intimità straordinaria con Dio. Mosè parlava faccia a faccia con Dio. Da dove deriva tutta questa intimità? Perché Dio è attratto dagli umili. Dio si avvicina agli umili, Dio si abbassa e li abbraccia e ha intimità con loro, ma rifiuta i superbi. È quello che leggiamo nella parola. Vuoi vivere una profondità maggiore nella tua vita spirituale? Umiliati, sii umile, chiedi aiuto. Vuoi crescere nell'umiltà? Chiedi correzione, chiedi istruzioni, sottomettiti. Quando è facile, quando è difficile, quando è quello che vuoi fare, quando quello che ti viene detto si addice a te, ti piace, è in linea con il tuo pensiero, ma ancora di più, quando è proprio contrario ad ogni logica tua, ti viene chiesto di farlo, lì eserciti l'umiltà. Non è meraviglioso metterci in condizione di vivere tutto questo? Dio ci vuole alzare, ci vuole elevare. E io vedo tante persone elevate, tante persone che hanno conquistato territori. Perché? Perché vedo la vostra umiltà. Vogliamo alzarci in piedi stasera? Vogliamo darci occasione di vivere umiltà? Se vuoi crescere nell'umiltà, un'altra cosa che puoi fare, ed è bellissima da fare, adorare. Tutte le cose che mettono qualcun altro, elevano qualcun altro, fanno esercitare in te umiltà. Quando tu adori Dio, lo ringrazi, lo elevi, nonostante i tuoi problemi, le tue situazioni, le tue circostanze, tu stai esercitando umiltà. Essere riuniti, alzare le nostre mani, cantare a Dio, è un gesto di umiltà. Devi andare oltre quello che è il pensiero di che cosa penserà quello che mi sta vicino, avanti, dietro. Devi andare oltre ogni pensiero di cosa diranno gli altri se mi inginocchio in questo momento. Avete mai pensato questo? Io tante volte. E sono rimasto in piedi e non mi sono inginocchiato perché pensavo a quello che altri potevano pensare di me. Inginocchiarsi, stare alla sua presenza, alzare le tue mani, adorarlo, ringraziarlo, sono tutti gesti che alimentano l'umiltà nella tua vita. E io vorrei che noi vivessimo un tempo nel quale abbiamo l'opportunità di esercitare tutto questo, un tempo di adorazione, di preghiera, sia qui sia a Mottola. Io ti voglio invitare a sentirti libero di inginocchiarti alla presenza di Dio, di alzare le tue mani e dire: Signore, io voglio elevare te, io voglio benedire il tuo nome. Un'altra cosa che ti voglio chiedere di fare questa sera: renditi vulnerabile. Se hai bisogno di preghiera per qualsiasi cosa, siamo qui per pregare per te. E voglio invitare tutte le persone che hanno un bisogno, una necessità, e riconoscono che questa sera vogliono essere quel Naaman che si lascia istruire e che ha l'opportunità di afferrare un miracolo perché si rende umile. Se tu stasera vuoi afferrare il miracolo di Dio, allora io ti chiedo di venire qui avanti. E il tuo gesto di venire qui avanti e chiedere preghiera a qualcuno che magari non ha una bellissima preghiera da fare, magari tu hai una preghiera molto migliore di quella che ascolterai, ma il fatto che tu ti affidi, ti umili, chiedi aiuto, permetterà a Dio di innalzarti. Amen. Voglio invitare il gruppo Lode a guidarci in questo tempo di adorazione. Vogliamo chiudere i nostri occhi, sia qui, sia a Mottola. Se hai libertà di farlo, comincia ad alzare le tue mani. Comincia a fare grande il tuo Dio nella tua vita. A chiedergli più umiltà, a chiedergli di essere più simile a Lui. E voglio invitarti già da ore, se sapevi che quella persona che stavo nominando sei tu e riconosci questa sera che hai bisogno di aiuto, che hai bisogno di preghiera, io ti invito, senza che indugi molto o che aspetti che altri facciano il primo passo, ti chiedo di venire qui avanti, e lo puoi fare anche se sei lì a Mottola. Possiamo venire avanti e ci saranno persone che pregheranno per voi. Quindi anche a Mottola ci sarà una squadra, Giovanni, che verrà, pregherà per te. Se hai bisogno di preghiera perché hai una malattia, hai una pesantezza, o semplicemente anche come gesto di umiltà ti vuoi affidare alla preghiera di un fratello, di una sorella, ti chiedo di venire avanti ora e la squadra pastorale pregherà per te. Adoriamolo, cerchiamolo in questo tempo. Alleluia.